Al-Ala, l'Altissimo. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Sabbihisma Rabbikal A'la. Glorifica il nome del tuo Signore, l'Altissimo. Alladhi khalaqa fasawwa. Colui che ha creato e dato forma armoniosa. Walladhi qaddara fahada. Colui che ha decretato e guidato. Walladhi akhraja al-mar'a. Colui che fa germinare i pascoli. Faja'alahu ghusaan ahwa. E ne fa poi fieno scuro. Sanuqri'uka fala tansa. Ti faremo recitare il Corano e non dimenticherai. Illa ma sha'a Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Se non ciò che Allah vuole. Egli conosce il palese e l'occulto. Ti faciliteremo la via più facile. Ricorda che il ricordo è utile. Se ne ricorderà chi teme Allah. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. E solo il malvagio se ne allontanerà. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Brucerà nel fuoco più grande. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. In cui non morrà e non vivrà. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Avrà successo chi si sarà purificato. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. E avrà ricordato il nome di Allah e assolto all'orazione. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Ma voi preferite la vita terrena. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Mentre l'altra è migliore e più duratura. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى. In verità ciò è nei fogli antichi. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. I fogli di Abramo e di Mosè.